Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. E grazie, grazie di esserci. Complimenti alle due fate turchine. Buongiorno, vi volevo fare i complimenti perché siete le donne più simpatiche. Ascoltarvi anche quando si lavora è veramente piacevole. Cristina, e che carina che alleggerite veramente la giornata. Guardi. Buongiorno, intanto complimenti per la trasmissione, vi adoro, siete bravissime. Sono una vostra fan accanita, lo saprete. Brava. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. La descrizione di un attimo, le convinzioni che cambiano e crolla la fortezza del mondo. Nicoletta, qualche volta bisogna cogliere l'attimo giusto, vale per tutte le cose queste. Sante parole. Questa indicazione. È un modo di dire appunto che si può applicare a tante situazioni di cuore ma anche di denari. Ad esempio, questo potrebbe essere l'attimo da cogliere, il carpe diem, per chi vuole sottoscrivere un mutuo. Un attimo che si aspettava forse da un po' di tempo nel nostro paese, paese dove a causa della crisi, come sapete, le banche hanno per lungo periodo chiuso i loro rubinetti. Secondo l'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, nei primi 10 mesi di quest'anno è stato erogato oltre il 30% in più rispetto ad un anno fa e si è arrivati ad oltre quota 20 miliardi di euro che già da soli, senza i restanti 2 mesi di questo 2014, superano già l'intero ammontare del 2013. Si eroga di più, aumenta la fiducia, ci si sente anche più incoraggiati a chiedere un mutuo alla propria banca, un dato che fa un po' a pugni con quello che abbiamo dato settimana scorsa sulla disoccupazione italiana. Magari questa sarà una riflessione da fare nel corso della trasmissione, ma numeri positivi sono anche quelli pubblicati dal CRIF ieri, che registrano per il mese di novembre un più 21% rispetto ad un anno fa per quanto riguarda le domande di mutuo. Si tratta in questo caso dell'incremento mensile più consistente degli ultimi 5 anni. Infine, non dimentichiamo il fondo di garanzia da 650 milioni di euro, frutto di un accordo fra il Ministero dell'Economia, sempre l'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, appunto ne abbiamo parlato proprio qualche tempo fa qui a Cuore Denari. Si aspettava la definizione della procedura per far richiesta, è arrivata lunedì, quindi anche questa possibilità, possiamo dirlo, è reale. 3 indizi, in sostanza, che ci dicono che è il momento buono per un mutuo? Più che ce lo dico, facciamo un po' una domanda su questo. Sì, un no? Bel punto interrogativo. Esatto, ve lo state chiedendo, voi ci state pensando, che dubbi avete? Oggi torniamo a parlarne, fateci le vostre domande all'800 24 00 24, siete in tempo fino alle 11.45 perché ne parleremo oggi nella prima parte della nostra trasmissione. Sì, oggi parliamo di tempo, anzi per essere più precisi di tempi, oltre all'orologio che portiamo al polso abbiamo infatti un altro orologio, il cosiddetto orologio interno. Quello che regola tutte le funzioni della nostra vita, scandendo per l'appunto i nostri ritmi e i nostri tempi. La cronobiologia è la scienza medica che si occupa e studia i ritmi del nostro corpo e questa branca della medicina ha prodotto nuove scoperte, utili applicazioni terapeutiche che giovano alla nostra salute e anche al nostro benessere. Ne parleremo con un grande esperto a partire dalle 11.45, riflettendo che spesso i tempi che ci imponiamo non tengono conto dei ritmi naturali di corpo e di mente. E l'andare contro tempo e l'essere sempre fuori tempo riduce il nostro benessere. 800 24 00 24, quindi se volete sapere l'ora migliore per studiare, lavorare, fare attività sportiva, non perdete altro tempo, chiamate il nostro numero verde, è un'ottima e imperdibile occasione per sincronizzare gli orologi e quindi migliorare le nostre prestazioni, riducendo al tempo stesso la fatica quotidiana e questo ci fa molto piacere. Le evidenze che abbiamo è che le nuove erogazioni dei mutui nei primi 10 mesi del 2014 rispetto ai primi dieci mesi del 2013 danno un incremento del più 30,5%. Addirittura le nuove erogazioni dei primi 10 mesi del 2014 sono superiori all'intero ammontare erogato nel 2013. questo è il dato più rilevante che possiamo raccontarvi fino a questo momento. Come vi anticipavo già in apertura di trasmissione, l'abbiamo sentito dalle parole di questo signore che è Gianfranco Torriero, direttore centrale responsabile della ricerca ABI. L'ho incontrato sabato ad un seminario dell'Associazione delle Banche Italiane. Sono stata a Ravenna, la città dove c'è la più alta qualità della vita, secondo il Sole 24 Ore, ti ricordi? Certo, l'abbiamo appunto ricordato anche lunedì. Esatto. Un giretto a Ravenna, quindi bisogna farlo. Assolutamente, è una città meravigliosa. E allora, insomma, è una città dalla quale abbiamo appreso questo risultato per quello che riguarda l'erogazione del credito nel nostro paese. Di questa intervista a Torriero ascolteremo altri passaggi nel corso della puntata di oggi, che stimoleranno certamente le nostre riflessioni, ma poi per tutte le risposte concrete ai nostri ascoltatori, naturalmente il nostro cavallo di battaglia, che è Roberto Anedda, direttore marketing di Mutui Online. Ben trovato. Grazie, ben ritrovato a voi. Devo nitrire. Se vuole, alla prossima. Non appena l'ho detto, mi è venuta male la battuta. No. Dico, però ormai era troppo tardi per rimediare. Va benissimo. Allora, a Mutui Online risulta questa stessa tendenza dell'ABI, Anedda? Sì, sicuramente durante tutto l'anno abbiamo visto un crescendo nell'erogazione di mutui, sia per quanto riguarda gli acquisti, che poi, soprattutto negli ultimi mesi, una forte accelerazione sulle surroghe, grazie al fatto che, un po' anche per le diverse manovre che anche quest'anno Mario Draghi ha messo in campo per incentivare, come dire, i flussi di liquidità. E altre ne annuncerà domani, tra l'altro. Esatto, quindi siamo in ulteriore attesa, ma il mercato effettivamente ha risposto anche da parte delle banche, quindi c'è stato un progressivo abbassamento dei famosi spread che negli anni passati avevano tanto creato difficoltà a chi voleva ottenere un mutuo. Si sono più che dimezzati, ormai siamo molto vicini ai livelli pre-crisi, ma nel frattempo anche l'Euribor, gli IRS, quindi il costo del denaro di suo è sceso ai minimi storici, e quindi i tassi sono essi stessi ai minimi storici, come ben annunciavate all'inizio della trasmissione. È sicuramente un momento molto favorevole per i mutui, certo, in un ambito economico che è ancora incerto. Per esatto, le perché a me colpisce questo più 30% dell'ABI in rapporto ad un tasso di disoccupazione italiano che è lo stesso a livelli elevatissimi. Mi chiedo quale sia il profilo della persona che chiede il mutuo in questo momento. Attenzione, c'è da considerare che, come dicevo, una componente importante è quella delle surroghe, quindi cambi di mutuo, fortunatamente a costo zero, per passare a mutui più convenienti, ma da parte di chi in mutuo già lo aveva fatto in anni passati. E questo va conteggiato anche poi nello stock. Certo, l'erogazione comunque a tutti gli effetti, dato che si conta come un mutuo nuovo. Sì, dato che viene fatta da una nuova banca, perché io che ho un vecchio mutuo vado da un'altra banca. Quindi non è che proprio questi dati fotografano la realtà. Nel senso che non è un 30% di nuovi mutui, nel senso di persone che prima non avevano un mutuo e adesso ce l'hanno. Una parte di questi, che è comunque un 10% abbondante, è comunque un nuovo mutuo, perché sono mutui di acquisto casa, quindi c'è comunque anche una certa ripresa dell'acquisto delle case dopo peraltro anni e anni che il mercato immobiliare andava. Certo, perché i prezzi stanno scendendo ovunque. Però c'è questa componente aggiuntiva della surroga che ha sicuramente incentivato le erogazioni di mutuo e le ha fatte accelerare, ma appunto, come ben notavate, non è tutto un incremento di mercato vero e proprio. Allora, a proposito di surroghe, già la prima domanda del primo ascoltatore che si candida oggi ha proprio questo argomento. Fra un po' lo sentiremo. Roberto dalla provincia di Varese intanto continua ad invitare i nostri ascoltatori all'800 24 00 24. Dateci, se volete, un aggiornamento della vostra situazione rispetto al mondo dei mutui. Siete nel pieno della restituzione alle prese con le rate? Se avete un tasso variabile, quanto è scesa la rata negli ultimi anni, oppure proprio non vi è neanche mai venuto in mente di chiederlo? Chiedete e non ottenete. C'è chi ci sta raccontando che sta provando a fare la surroga, le banche non rispondono, ma anche lì, insomma, non è detto che una banca debba per forza dire sì ad una persona nuova che dice: io ho un mutuo vecchio, per me è troppo oneroso, fammi una condizione più conveniente. Scriveteci anche, se volete, al 349 238 6666, o su Facebook. Seguiteci naturalmente su Facebook e su Twitter. Andiamo da Roberto Subito. Dalla provincia di Varese, perché poi c'è Paolo da Belluno che ci manda un messaggio. Cosa dice? Salve, dolce coppia di cuore denari, e già mi piace. Ma Roberto dalla provincia di Varese, buongiorno a lei. Benvenuto Roberto. Buongiorno. Sei emozionato Roberto? No. Roberto? Sì, pronto? Vada. Ecco, la mia domanda era proprio inerente all'ultima cosa che stavate dicendo, ovvero è anche il momento di passare da un mutuo variabile a un mutuo a tasso fisso, visto che finora il tasso è calato e magari un domani, non lo so, potrebbe aumentare? Allora Roberto, beh certo, non domani, non dopodomani, probabilmente ancora, io direi che almeno per un biennio non avremo un trend di rialzo dei tassi di interesse in Europa, anzi avremo ancora questo livello rasoterra per un lungo periodo, però qua il tema è un po' lo spirito con il quale si sottoscrive un tasso piuttosto che un altro, perché se uno ha un variabile in questo momento con una convenienza eccezionale, passando al fisso intanto la sua rata aumenta, però come dire, conquista la sicurezza poi per sempre. Sì, come si fa a stabilire che cosa va meglio rispetto? Scelta difficile. Sì, dipende molto dal momento in cui è stato fatto il mutuo, perché effettivamente in questo momento in cui i tassi sono ai minimi storici di sempre, è addirittura possibile sottoscrivere dei tassi fissi, quindi anche nel caso di un mutuo di surroga, con durate di 20 o 30 anni con tassi sotto il 4%, che sono tassi assolutamente sostenibili ed estremamente convenienti, proprio perché tra l'altro fungono da assicurazione su un, come dire, un costo fisso del mutuo per un periodo pluridecennale, perché noi possiamo in parte ragionare nell'arco temporale di 2-3 anni, ma quello che può succedere tra 10-15 anni. Quindi intanto la prima anni, indicazione a Roberto, che ottica temporale di restituzione ancora hai davanti a te. Esatto, questo uno. Due, se gli rimangono 3 anni magari non penso che gli convenga fare certamente il passaggio. No. Noi ad esempio abbiamo fatto una serie di analisi per cui sopra i 15 anni sicuramente può essere interessante avere un passaggio al tasso fisso, soprattutto se magari si è sottoscritto un tasso variabile in anni recenti, perché dicevamo all'inizio della trasmissione, pochi anni fa gli spread medi che venivano applicati sui mutui andavano sopra il 3, il 3,5, addirittura sopra il 4. Adesso a quanto li hanno stabiliti le banche in questo momento? Gli spread migliori insomma, in questo medio. Momento, parlando di durate medio-lunghe, che sono quelle utilizzate per la stragrande maggioranza dei mutui, partono dall'1,85. Ma è probabile che nei prossimi mesi vedremo ancora qualche ulteriore riduzione. Cioè, ci sono alcune banche, una banca in particolare che fa un'offerta per un mutuo però a 10 anni con uno spread già dell'1,50, quindi sicuramente interessante, però chiaramente un mutuo a 10 anni con una determinata percentuale massima di finanziamento è un caso un po' limite, diciamo così, quindi non rappresenta la gran parte. Certo. Però certamente, come diceva Roberto, in molti casi potrebbe essere anche il caso di decidere di abbandonare il variabile per affidarsi alla tranquillità di un fisso che comunque, anche se nel breve, potrebbe costare di più, ma non è detto, perché potrei avere addirittura un variabile sottoscritto nel 2011 o 2012 che solo di spread mi costa più del fisso che farei adesso. È vero. Quindi come la minimo ho la rata che avevo prima, se anche devo puntare a una riduzione dei tassi variabili sarà molto contenuta ormai, perché gli Euribor sono quelli che sono, e quindi non risparmierei più di tanto, ma ho la garanzia che poi per 30 anni nessuno me lo tocca seconda più. Raccomandazione quindi che abbiamo dato: qualora vi venisse in mente di sottoscrivere il variabile adesso è assolutamente eccezionalmente conveniente, ma non sperate che insomma possa scendere ulteriormente, perché qua già stiamo scavando, come si suol dire, no, come si dice, il fondo del barile, raschiando. Volevo far sentire, Nicoletta, prima della prossima telefonata, l'altro commento di Gianfranco Torriero proprio sui tassi di interesse particolarmente scelti dalle famiglie italiane, sempre in questa intervista che ho raccolto nel weekend. L'andamento positivo si registra un po' per tutti i territori, è sicuramente superiore per il nord e per il centro, però ecco, diciamo che la finalità è sempre quello principale, l'acquisto della prima casa, e ci sono anche nuove finalità come sono per esempio il finanziamento per la ristrutturazione o l'efficientamento energetico. Tassi di interesse? I tassi di interesse stanno ritornando sui livelli diciamo similari a quelli registrati nella media europea, risentendo positivamente del restringimento dello spread. E allora 800 24 00 24, a proposito di surroghe, sentiamo Stefano da Milano. Buongiorno Stefano. Buongiorno. Benvenuto. Grazie, innanzitutto volevo salutarvi, volevo dirvi, l'ho visto la settimana scorsa al Forum Agenti, siete meglio dal vivo che per radio, perciò tanti complimenti. Bravo Stefano, dica pure che è nostro cugino, non ci offende, esatto, si smascheri. Dopo lascio l'Iban alla vostra segretaria. Eccoci qua, a posto. Ci dica, senta un po' col mutuo, allora come è messo? Allora, io sono messo in questo modo, io ho il problema contrario, io dovrei passare dal fisso, cioè un fisso a 4,70 e vorrei passare a un variabile. E certo, che dimezzerebbe drasticamente, penso, ecco, tutto l'onere. Tra l'altro mi mancano poco più di 8 anni, perciò insomma voglio dire, secondo me questo sarebbe il momento giusto. E io ho un mutuo con una banca, posso dire chi è? Guardi, se non è, io dico sempre che se non è una parolaccia a cuore denari si può allora, dire di tutto. Ma niente, ho un mutuo con WeBank, io allora ho chiesto di se potevo rinegoziarlo, loro mi hanno mandato, tra l'altro via posta, neanche con la mail, via posta, che mi abbassavano di 10 centesimi, 10 punti. Lo spread applicato magari sul... Lo spread sul... Beh, quindi già loro hanno fatto una loro controproposta, sostanzialmente una rinegoziazione, però non le basta. No, io ho chiesto di passare dal fisso al variabile e loro mi hanno detto no, se vuoi le abbassiamo di 0,10 il fisso che ha. E quel variabile ho detto, quando ho ricevuto, ho richiamato, guardate, io volevo la rinegoziazione per passare da uno all'altro, non mi ha più richiamato. Benissimo, Stefano, sintetizziamo, sta provando con altre banche? Sì. Ecco, sto provando con altre banche e mi succede questo, che vado in altre banche, buongiorno. Buongiorno, sono Stefano, vabbè, e loro? Qua, là, prendono tutti i dati, la chiamiamo e mi scrive. Allora, mamma mia, povero Stefano. No, questo è interessante. Dai. Anedda, ci sono dei tempi intanto lei. Proprio per prassi, insomma, che una banca, tempi di risposta che una banca deve correttamente seguire, insomma, rispetto ad una richiesta di questo tipo. Ci sono degli standard? Adesso magari questa è una domanda che non abbiamo mai fatto, però... Sì, non ci sono degli standard obbligatori, però diciamo che nella pratica quotidiana, soprattutto per dare una prima risposta, una prima valutazione a una richiesta di mutuo, che si tratti di acquisto, anche di surroga, insomma nell'arco di un paio di settimane massimo, cioè ma proprio esagerando, la prima risposta si dà, anche perché se ci sono dei problemi o delle valutazioni per le quali la banca preferisce non, come dire, portare avanti quel tipo di pratica, sono evidenti, insomma, già in una prima fase. Se che... Stefano tentasse di fare un preventivo con la vostra piattaforma, secondo lei, ecco, i tempi di risposta quali sarebbero? In generale, voi monitorate anche questo? Sì, perché poi noi sollecitiamo, cioè il cliente parla innanzitutto con i nostri consulenti, decide con quali banche andare a operare, ma poi noi stessi, cioè, ci interfacciamo con le banche per verificare che il cliente ottenga una risposta, certo. E soprattutto se la risposta tarda ad arrivare, si cerca di capire con la banca se c'è un motivo, e a quel punto si avvisa anche il cliente o per orientarsi su un'altra banca. Però, sembrano tempi molto lunghi. Ci scrive un'ascoltatrice: il mio compagno ha richiesto il 15 settembre la surroga alla banca in cui io lavoro, stiamo ancora aspettando che la pratica venga approvata. Ma no. Allora no, non è assolutamente fattibile. Allora, magari scriveteci, insomma, e noi come sempre gireremo i vostri casi ai diretti interessati per capire come mai casualmente poi queste istruttorie si arenano sempre in qualche tavolo di qualche ufficio. 800 24 00 24. Adesso sentiremo Antonio da Catanzaro, ma le chiedo sempre su mutui online, Anedda, a proposito di surroghe: sono più i contraenti di mutuo che chiedono il passaggio dal variabile al fisso o dal fisso al variabile per l'ovvia convenienza economica che c'è adesso? Cercano più stabilità, cercano di ancorare l'attuale basso tasso sul fisso che c'è, appunto, per fermarlo per lungo tempo, oppure avviene il contrario? Per quello che vediamo noi, e tra l'altro anticipo dei dati che stiamo lavorando proprio per un vostro collega della testata. Ottimo, sarà Vito Lopes certamente. No, è un altro. Però saranno i colleghi di Plus che noi salutiamo. Arriveremo sicuramente anche da Vito. Però per dire, insomma, il grande Vito, che la testata è sempre attenta poi a nuove problematiche. Certo. E in realtà l'80% comunque di coloro che stanno facendo la surroga quest'anno si indirizza poi sul variabile. Ovviamente non arrivano tutti dal fisso al variabile, sono abbastanza metà e metà, diciamo un 55% dal fisso e un altro restante 45% dal variabile, però comunque la gran parte punta al variabile, probabilmente per quel discorso che facevi tu, Deborah, all'inizio, cioè che comunque c'è ormai una percezione abbastanza chiara che i tassi sono ai minimi, che comunque nel breve non ci sarà una ripresa del costo del denaro, per breve parliamo di un paio d'anni. I tassi interbancari schizofrenici del 2008 e 2009, speriamo di non vederli mai più, naturalmente. Sì, chiaramente. Irripetibile. C'è sempre l'imprevisto dietro l'angolo, quindi non possiamo prendere certezze, ci mancherebbe. Non siamo qui a dire quali saranno gli andamenti dei tassi nei prossimi anni, perché saremo dei millantatori, però certo. Insomma, le valutazioni lasciano intendere, anche per quella che è la prospettiva economica in generale, che effettivamente il costo del denaro potrebbe rimanere certo. molto basso per diverso tempo. Fino a quando almeno abbiamo Mario Draghi in sella alla Banca Centrale Europea, sempre a proposito di cavalli, ormai stamattina mi sono avventurata su questo terreno. La scuderia. Esatto. E poi così. Allora, oggi è il cavallo. Oggi è il cavallo. Il nostro puro sangue europeo. Esatto. Cuore e denari. Comunque vadano le cose, lui passa e se ne frega se qualcuno è in ritardo. Puoi chiamarlo bastardo, ma intanto è già andato e fino adesso niente l'ho mai fermato. E tutto a più forte lo hai misurato con i tuoi orologi di ogni marca e modello. Ma tanto... Ogni cosa a suo tempo, c'è l'ora ideale per studiare, per fare attività sportiva, per apprendere, per memorizzare e credo anche per divertirsi, perché no? È la scienza a dirlo, o meglio una branca della medicina che si chiama cronobiologia. Sincronizzate l'orologio, sono le 11:35. Noi ne parleremo a partire dalle 11:45, quindi se volete conoscere l'ora migliore per dedicarsi alle attività quotidiane, ma non solo, chiamate il nostro numero verde. Vi racconteremo che ci sono anche momenti migliori di altri per assumere la terapia. Alcuni farmaci infatti possono essere più efficaci se assunti in certe ore, perché devono proprio avere l'effetto nell'ora in cui devono agire sulla funzione specifica. Quindi se la pastiglietta per la pressione, quella del colesterolo, fa parte della vostra quotidianità, chiamateci alle 11:45. Sarà con noi il professor Roberto Manfredini, professore associato di medicina interna e direttore della clinica medica di Ferrara. A tra poco. Aiuto, aiuto, ho fatto il mutuo, ho acceso. Aiuto, aiuto, ho fatto il mutuo, ho preso. Qualcuno può anche essere contento di averlo fatto, ha coronato il sogno della sua vita, quello di essersi comprato la casa dei propri sogni, appunto. Magari l'ha fatta nel tempo giusto. Nel tempo giusto. A proposito, esatto, di tempo. Questo è tempi. Un buon tempo per fare il mutuo, ricordando che naturalmente, Roberto Anedda, le banche non erogano più il 100% del valore dell'abitazione come avevano fatto fino a qualche tempo fa. Questa secondo me è anche una buona cosa, naturalmente, perché poi i tassi sono più onerosi, chiaramente, per importi di questo tipo. Adesso sentiremo Antonio da Catanzaro, che abbiamo lanciato poco fa. Prima di sentirlo però vorrei risentire di nuovo Gianfranco Torriero, direttore centrale dell'ABI, che appunto abbiamo incontrato nei giorni scorsi, che ci ha parlato anche di questa nuova iniziativa dell'ABI. Dopo il piano famiglie, l'ABI insieme alle associazioni dei consumatori sottoscriverà questo protocollo, che ancora non ha un formato chiaro, che si chiama Crediamoci, un piano di collaborazione appunto per migliorare le condizioni di accesso al credito per le famiglie. Sentiamo. È un protocollo che andremo a sottoscrivere a breve, proprio per riuscire a intervenire sia in termini di sostegno alle famiglie in difficoltà, sia per quanto riguarda un miglior accesso al credito, sia per quanto riguarda un'ulteriore maggiore trasparenza, quindi intervenire nel segmento del finanziamento alle famiglie su una serie di aspetti, ma confrontandoci direttamente con le associazioni dei consumatori e portando delle proposte che possono essere anche proposte all'interno, sviluppare all'interno delle banche e delle associazioni dei consumatori, ma anche portando attenzione del pubblico decisore. Magari suggeriremo all'ABI, a Nedda, di mettere anche qualche indicazione sulle risposte che le banche devono dare alla clientela che chiede un mutuo, insomma, se si dice no, per quale motivo viene negata una richiesta, no? Ce lo dicevamo a microfoni spenti, magari potrebbe essere una un buona idea, stimolo. Dai. Antonio da Catanzaro, benvenuto. Grazie. È una punta di invidia per il collega che ha avuto la fortuna di conoscervi di persona, mentre noi vi ascoltiamo quotidianamente, siete le nostre compagne di viaggio. La mia situazione è sinteticamente: contratto mutuo a un tasso fisso del 5% nel 2007, capitale erogato 140.000 euro. Sì. Spread 0,5 grazie ad una convenzione, ogni tanto le mogli servono a qualcosa, per cui Antonio aveva una convenzione speciale, perché sì, sul mercato all'epoca lo 0,5 non lo dava nessuno. Io una moglie d'oro, quindi esatto. Dopodiché Oggi, diciamo così, attento, inseguo grazie a Mutui Online, di cui, diciamo così, mensilmente mi collego per verificare e valutare bene le condizioni. Un cugino proprio ieri ho avuto purtroppo la risposta negativa da parte di una banca a cui mi ero rivolto in virtù del contatto avuto tramite Mutui Online, della surroga. Il mio capitale residuo è di 60.000 euro. Allora, la risposta del direttore è stata vista le spese che la banca si deve accollare, poiché la surroga le spese sono tutte a carico della banca, il capitale di 60.000 euro non conviene. Antonio, però guardi, banca. Io stavo ascoltando attentamente il suo caso, sottoscritto nel 2007 a tasso fisso, quindi Antonio è stato... quanto dura il mutuo, Antonio, complessivamente? Allora, rinegoziato con la mia banca d'origine un abbattimento, perché le cose vanno bene per fortunatamente anche qua in Calabria. Quanto le rimane? Mi rimangono 8 anni con una rata mensile di 798 euro, 800. Disponibilità anche ad abbattere, disponibilità anche ad abbattere, a ridurre gli anni o ad avere una liquidità per fare altri investimenti. Ecco. Allora, Antonio, no, stavo pensando, lui è sottoscritto nel 2007 al tasso del 5%. Intanto è stato protetto, diciamo, da tutta quella bufera sui tassi interbancari che ha travolto tutti, me compresa, tra il 2008 appunto e il 2009. Prima cosa, gli rimane un 0,5% di spread che non si è mai visto nella storia dell'industria bancaria italiana. Esatto. Cioè, ma forse non vale la pena, D'Antonio, riflettere sul fatto se rimanere o meno in questa condizione, starsene lì tranquillo. Al limite, se ha un po' di liquidità, abbatterlo, però mantenere queste condizioni, Anedda? Più che altro c'è da dire che proprio per l'importo ormai limitato e per gli anni residui, che tra l'altro appunto era evidentemente un mutuo già di per sé di durata breve, perché è fatto nel 2007, ne sono passati 7, ne mancano 8, quindi... 15 anni. Era un mutuo di 15 anni, quindi è uno di quei mutui di breve durata, diciamo così, breve ovviamente rispetto a quelli da 20 e 30 che normalmente vediamo sul mercato, è già in una fase, e ce lo dice anche il capitale residuo, in cui Antonio sta fortunatamente con le sue rate rimborsando più capitale che interessi. Quindi anche un'eventuale riduzione di tasso, pur scendendo intorno al 2% che potrebbe avere con un nuovo variabile, al di là di quello che la banca può avergli detto sulla convenienza della banca propria, che posso capire per il fatto che il mutuo ha un importo piccolo, la durata è breve, quindi effettivamente i costi in alcuni casi per la surroga sono notevoli, è uno dei limiti della surroga, antieconomico per la banca, che poi ricascano purtroppo sul cliente, ma anche per lui potrebbe essere, bisognerebbe poi fare i conti precisi, ma comunque un vantaggio, un risparmio molto contenuto, perché alla fine nel ricalcolo del nuovo mutuo di surroga il piano di ammortamento riparte da zero, quindi lo si ricalcola, quindi anche se fosse per gli 8 anni residui, o poniamo che uno lo allunga a 10, ripartono eccetera, tutti gli interessi all'inizio del piano, un po' di interessi in più li si hanno, considerando che lui già ne pagherebbe pochi come residui. Alla insomma, fine, il gioco non insomma, vale la candela. Potrebbe, allora, ripeto, lui, dovendo fare un calcolo così mentale è impossibile. È una persona molto molto attenta, molto informata. Secondo me mettere un po' sotto pressione qualche altra banca e chiedere informazioni sicuramente può farle. Magari trova qualcuno. È un cavallo di razza. È stato così gentile da... Non l'abbiamo fatto nitrire stamattina. È stato così gentile da utilizzare il nostro servizio. Sicuramente possiamo anche verificare anche con altre banche quale sia la situazione, infatti, e vedere se ci può essere qualcun altro interessato. Senta, a parte l'iniziativa Crediamoci annunciata da Torriero, è pronta invece l'iniziativa da 650 milioni appunto che parte per promossa appunto dal Ministero dell'Economia e dall'ABI per come dire, i nuclei familiari formati da giovani coppie, giovani di età inferiore ai 35 anni, lavoratori atipici e quant'altro. Come vede questa iniziativa, Anedda, peraltro, per chi volesse avere qualche informazione più sul sito del Ministero dell'Economia, ci sono già i moduli addirittura per fare una domanda per ottenere appunto questa garanzia da parte dello Stato. Sostanzialmente funziona così, adesso non abbiamo molto tempo per spiegarlo, magari faremo una puntata apposita, però sostanzialmente serve, secondo lei, Anedda, un pacchetto di questo tipo, oppure le banche potevano far da sole ad aiutare? No, per carità, cioè anche le banche non possono poi farsi carico sempre da sole di far tutto, cioè se stesse sono state aiutate dalla banca centrale per cercare di, come dire, sostenere l'economia, se stiamo parlando di operazioni che servono a sostenere il credito, soprattutto se per la casa, delle famiglie più disagiate o con redditi più bassi o più giovani, qualunque intervento, che non sia appunto demandato solo all'iniziativa delle singole banche, ma che veda di mezzo anche lo Stato, è benvenuto e anzi fondamentale, perché si tratta proprio innanzitutto di una fascia importante della popolazione, non solo dal punto di vista quantitativo, ma proprio anche del futuro della nostra nazione, perché se non diamo un po' di opportunità ai giovani e alle famiglie che ancora si stanno formando di avere una casa, avere un costo ragionevole per l'acquisto di una casa, li condanniamo ad avere sempre un futuro incerto, vivere una condizione eterna di precarietà, rispetto come a dieci anni culturale, fa, strutturale, sì, rispetto a 10 anni fa l'età media di chi compra casa e fa un mutuo è salita di 10 anni, è tantissimo. In tempi come questi, in cui ci sono tante difficoltà, bisognerebbe invece tornare a come una volta, in cui già nella fascia tra i 25 e i 30 uno riesce a mettere in piedi un proprio progetto casa. Esatto. E su questo solo con gli aiuti statali. Noi volevo ricordare che abbiamo messo già tutte le informazioni sul nostro profilo Facebook, e magari prima di Natale metteremo questo regalo sotto l'albero dei nostri giovani ascoltatori. Rapidamente l'ultima domanda ce la scrive su Twitter Sissimat: tasso fisso al 3,9%, sottoscritto nel gennaio 2011 per 30 anni, vale la pena essere ricontrattato? Beh, intanto stressare un po' la banca, fare una richiesta per portarlo al 3,8, al 3,7, perché no? Sotto questa soglia del 4% per un fisso? Diciamo che su una durata così lunga siamo già molto vicini. L'ha fatto fortunatamente proprio prima che cominciassero a scattare le crisi, quindi si è anche tutelato dagli aumenti successivi e siamo veramente a decimi di punto minimi rispetto ai minimi di adesso. Vada a offrire un caffè al suo direttore di banca, guardi, se lo tenga stretto. Meglio chiedere più degli sconti su altre spese, magari del conto o di altro. Porti un pony magari stamattina. grazie a Roberto Anetta. Grazie a voi. Nel frattempo io oggi lo stresso un po', perché ci sono tantissime domande. Scalpito per tornare. Cuore e denari. Alle 8 precise abbassi l'interruttore generale proprio quando sto per fare il nome dell'assassino. Tolgo la luce per 5 secondi. Non un secondo di più, il tempo è utile perché lasci l'assassino alla sala. Capito? Chiaro, sì? Chiaro. Sincronizziamo gli orologi. Sincronizziamo gli orologi, Deborah. Ti è venuta bene con l'aereo. Sono le 11.48, fatelo anche voi da casa, benissimo. Adesso che ci siamo occupati dell'orologio che portiamo al polso, possiamo occuparci dell'altro, quello che regola tutte le funzioni della nostra vita, scandendo per l'appunto i nostri ritmi, i nostri tempi. E con noi il professor Roberto Manfredini, professore associato di medicina interna e direttore della clinica medica di Ferrara. Buongiorno, sono molto contenta, è arrivato finalmente il tempo di averlo qua in studio. Buongiorno a voi. Buongiorno agli ascoltatori, e devo dire che non c'è un'ora migliore della giornata, visto che stare qua con voi è eccellente, quindi questa mattina sono tutti così cortesi e non parenti. Esatto, stranamente non siete parenti. Allora, professore, diventiamo subito seri. Intanto iniziano già ad arrivare i messaggi al 349-238-6666. Avevamo anticipato che avremmo anche parlato dei tempi giusti per assumere le terapie. Ci scrive subito Giulia: prendo la cardioaspirina dopo la prima colazione, che faccia abbondante, brava, come da nostre raccomandazioni, e la simvastatina dopo la cena, va bene? Ci chiede Giulia, le risponderemo, rimanga collegata con noi, ma intanto possiamo promuoverla? Sì, se Giulia fa medicina gli posso dar buono anche il credito dell'esame di cronoterapia. Perfetto. Va bene. Allora 800 24 00 24 per prenotare i vostri interventi. Professore, noi non lo vediamo, ma scandisce ogni istante della nostra vita, e per stare bene dovremmo sincronizzarsi con lui, con l'orologio interno e soprattutto con i suoi ritmi, che sono quelli naturali. Sarebbe tutto più facile, avremo, come si dice, più resa con minor spesa. È vero, anche se il discorso è molto complesso, è vero che ogni nostra funzione ha un momento migliore e peggiore nella giornata, ogni funzione, da quelle generali a quelle piccole metaboliche di un enzima. E questo orologino che noi abbiamo nell'ipotalamo è veramente un pugno di neuroni, nulla di più, è in grado di scandire questo ritmo, e negli ultimissimi anni abbiamo visto che ha tanti piccoli cuginetti in giro per l'organismo che un po' prendono ordini ma un po' no. Mm. quindi degli assistenti, degli aiutanti. Ogni organo e ogni apparato pare abbia il proprio orologio, che da un certo punto di vista è forse anche legato per via gerarchica, ma non solo, quasi per via federale, per alcune cose quindi legifera per conto suo. 800 24 00 24 se volete saperne di più dell'orologione, degli orologini. Professore, però, che in ogni giornata si succedano dei momenti sì e i momenti no, già noi lo sapevamo per esperienza diretta, ma abbiamo sempre un po' fatto di necessità virtù. Adesso la cronobiologia ci dice che le nostre impressioni hanno un fondamento scientifico e, Deborah, una scienza medica che ci dà ragione già ci piace. Ci piace moltissimo. Quante volte quando noi abbiamo detto, no, sai che al pomeriggio è il mio momento un po' down. Guarda, io per esempio la palestra, la medesima disciplina, farla alle 11 del mattino per me è una tragedia, divento paonazza, la pressione mi va alle stelle, io, come dire, sono efficace in palestra dalle 18 in avanti. Vedi? Come molti, credo. Allora, parleremo anche di attività sportiva, e quindi diteci che attività sportiva svolgete, se siete soddisfatti e soprattutto a che ora la praticate. Ma professor Manfredini, che cosa ci racconta, che cosa ci dice esattamente la cronobiologia? Studia tutti questi orologi e orologini, ma... Studia l'andamento ritmico delle funzioni biologiche. Pensate che anche il più piccolo organismo unicellulare, come potrebbe essere una ameba del più profondo degli oceani, ha almeno 2-3 ritmi circadiani. Quindi se uno si ponesse la domanda perché a miliardi di anni dall'evoluzione ancora ce l'abbiamo nel 2014 l'uomo, è perché possedere la capacità di prevedere quello che succede, quello che gli evoluzionisti chiamano vantaggio evolutivo, vuol dire che ti dà la possibilità di sopravvivere di più, e quindi ce l'abbiamo tuttora. Tutti questi momenti sì e questi momenti no, professore, hanno un andamento ciclico, come se fosse scandito appunto da questo orologio, il famoso orologio interno. È sempre così? Dunque abbiamo vari ritmi. Sì. Il ritmo principale è il circadiano, quello di circa 24 ore, perché la Terra impiega circa 24 ore per un moto. Circadiano con la R? Sì, circa diem, perché non è proprio 24 ore, è un pizzichino di più, è un po' più lungo delle 24 ore, quindi si usa il circa latino. Infatti, anche per esempio quando dovessimo affrontare il discorso della desincronizzazione dei ritmi con un jet lag, per esempio, è noto che viaggiare in una direzione o nell'altra, la differenza si sente, perché se allunghiamo la giornata ci avviciniamo di più al nostro orologio biologico, che è un po' più lungo delle 24 ore. Se l'accorciamo stiamo un pochino peggio e recuperiamo un po' di distanza. West is best and east is least. Meglio viaggiare verso ovest che non verso est. È un piccolo proverbio che però rende ragione del fatto che si recupera un 50% in più. Vedi, viaggiamo verso ovest. Ecco perché serve la melatonina per sistemare tutto poi. Abbiamo fatto delle puntate magnifiche con il professor Manfredini sulla melatonina, potete magari, adesso guardo Laura, ma potete riascoltarle dal nostro archivio, perché poi la Laura dice, ma Nico tu lo dici, poi devo ripescare io. Allora, questi ritmi, professor Manfredini, di cui lei parla, sono ereditari o invece ciascuno al suo? Questa è una bella domanda, perché noi nel nostro DNA ereditiamo assolutamente una quota di geni che sono geni cronobiologici. Il più famoso è il gene clock, ma ce ne sono, quindi anche proprio col nome dell'orologio, tutti scoperti dal 2000 in poi, quindi si parla di in scienza gli ultimi 15 anni sono una corsa, sì, sono una volata. Nella realtà poi i sincronizzatori esterni, il più importante è luce buio, sì, sicuramente il sincronizzatore ancestrale dell'uomo, ma stanno diventando importanti anche attività riposo, ritmo dei pasti eccetera, ci possono far modificare. Cioè una persona può avere scandito nel DNA qualcosa, ma se gli facciamo fare tutta la vita il guardiano notturno, certo, ovviamente modificherà i suoi ritmi. Ma questa oscillazione vale sempre per tutti o in alcune condizioni salta, ad esempio magari in assenza della luce del buio o ancora in assenza di gravità? Io vedo che lei sta già sorridendo perché sa dove voglio arrivare. Io ho letto che lei e il professor Zamboni avete ideato una parte degli esperimenti del progetto che Samantha Cristoforetti realizzerà durante la sua missione. Intanto complimenti, perché bisogna essere molto bravi per partecipare a questi progetti. progetti che sono peraltro sottoposti ad una selezione durissima e sono anche molto costosi. La donna di denari già tira fuori non ho il budget, però so che allora cosa. Complimenti. Intanto, che cosa farete? Che cosa farete fare a Samantha là nello spazio? Che cosa ci porteremo a casa? Dunque, sì, è vero, sono costosissimi perché la possibilità di avere come laboratorio un cosmonauta rappresenta la punta dell'iceberg a cui pochissimi possono arrivare. E quindi la NASA affida questi studi in base a quanto i paesi contribuiscono ai progetti spaziali. Noi abbiamo vinto, pochi italiani, il gruppo del professor Zamboni insieme con cui collabora, abbiamo vinto questo progetto. Cercheremo di valutare in condizioni di non gravità il flusso venoso cerebrale. Sappiamo tutto sull'arterioso, non sul venoso, perché la legge di gravità sulla Terra modifica tutto. Certo. Quindi in condizioni di ipogravità e cercheremo di trovare i suoi ritmi circadiani. E noi ne parleremo subito dopo il nostro GR, il nostro numero verde vi attende, è tempo di farlo. Cuore e denari. Dormire. Salutare. Ogni cosa a suo tempo. Adesso è tempo di parlare di cronobiologia. 800 24 00 24 insieme al professor Roberto Manfredini, professore associato di medicina interna e direttore della clinica medica di Ferrara. Quindi se volete sapere l'ora migliore per incamerare informazioni, fare attività sportiva, recuperare energia, mangiare e riposare, ma anche per assumere la terapia, chiamateci, siamo a vostra, anzi il professore è a vostra disposizione, perché io e Deborah vi accompagniamo. Iniziamo subito con le nostre telefonate. Solo spazio agli ascoltatori, da ogni domanda ricaveremo un'indicazione da portarci a casa. Andrea, buongiorno, ci chiama da Bologna, benvenuto. Esattamente, buongiorno, grazie, buongiorno. Volevo chiedere fare questa domanda. Per lo studio, nella fattispecie, uno strumento musicale, perché mi sono un pochino documentato e c'è differenza tra studiare storia, chimica o un'altra cosa, che ne so, una patente nautica, piuttosto che studiare uno strumento musicale. Qual è l'orario più idoneo, non so, il mattino appena svegli, prima di pranzo, pomeriggio, sera? Ma lei delle prove, Andrea, le ha già fatte? Allora, io ho fatto un po' di prove, perché la mattina comunque ti alzi, fai colazione, lo fai fuori, poi magari insomma hai una certa energia che fai fatica, infatti so già che è differente studiare pianoforte piuttosto che violino. Ma lei che strumento usa, Andrea? Così pianoforte. Allora, In determinati orari magari hai dei processi digestivi che magari insomma tendi un po' alla sera, cioè, allora poi c'è la bioco postprandiale. Esatto. Allora, professore, possiamo aiutare Andrea da Bologna, che poi ci manderà naturalmente un CD con le sue buongiorno così Andrea, sono... esperto, domanda trabocchetto questa, studiare sullo strumento musicale. Dunque, direi per lo studio rimaniamo in generale la fascia ideale, come fosse che la scuola è stata creata apposta, è l'ora del mattino, però ci sono anche delle fasce pomeridiane buone. Però attenzione, siccome la destrezza manuale, credo che stiamo parlando di uno strumento dove la destrezza manuale è importantissima, è provato che la fascia del mattino è assolutamente la più consona per qualunque attività dove si chiede precisione e destrezza, oltre che capacità di attenzione. Quindi le direi quello, ecco, indipendentemente da biocchi o da cibo, la performance migliore si raggiunge in queste ore. Tra l'altro ci sono molti ascoltatori che ci chiedono informazioni proprio sullo studio dello strumento musicale, ma noi sappiamo che ci sono anche molti sportivi all'ascolto, possiamo invitarli quindi a dirci che tipo di sport praticano, se sono soddisfatti dei risultati ottenuti. Forse basterebbe cambiare orario per avere più soddisfazione. Andiamo dove, Deborah? Andiamo da Anna, da Torino, perché il ferrarese adesso lo facciamo ancora un po' aspettare. Questo è un amico della sua Manfredini. Anna, buongiorno. Buongiorno. Oh, sì, buongiorno. Allora, io un po' come l'altro signore avevo bisogno di capire quali sono le ore migliori per lo studio in generale, perché ho due ragazzi adolescenti, quali tendenzialmente studiano sempre verso le 5 e le 6 di sera, posto che appunto al mattino siamo a scuola. Sì, posto che studino, aggiungerei io, perché non trovano mai il tempo. Comunque. Sì, nel senso che poi ci sono anche le ore che probabilmente sono più congeniali, nel senso che io stessa mi rendo conto che la sera, sul tardi, dopo cena, riesco a studiare meglio, insomma, no? Ad apprendere perché meglio, lei è un gufo, o no, professor Manfredini? No, non all'Odolina. Allora, buongiorno. Signora Anna, non diciamo che è mia cugina, anche lei, perché qua pare che dicano che le telefonate me le sono fatte fare, sto scherzando. Ah, sono proprio... Dunque, le fasce della giornata, giustamente per lo studio, allora escludiamo quella ottima che va bene del mattino per la capacità di apprendimento veloce, la scuola. Il pomeriggio è una buona fascia oraria, andando verso sera è sicuramente buona, come diceva giustamente lei. Se devo dare un consiglio, lo dico sempre ai ragazzi quando ci sono le interviste per gli esami di maturità o quant'altro, non fate la grande studiata notturna delle 2, delle 3, delle 4 di notte. È il nostro momento down, è il momento dove abbiamo la capacità di ritenere di attenzione minore, vuol dire tanta fatica e poca resa, quindi piuttosto andare fino alle 22, alle 23 e dormire nella fascia brutta o svegliarsi un'ora prima la mattina. Non facciamo studiare i nostri ragazzi, come spesso succede all'università, con le notti tirate, non si rende, si raccoglie poco. Allora, e noi continuiamo a raccogliere le telefonate dei nostri ascoltatori, perché le domande sono tantissime. 800 24 00 24, parleremo naturalmente anche di farmaci, di terapia. Dove vuoi che ti porti? Finalmente andiamo a Ferrara da Giovanni, perché buongiorno. Si è messo in attesa da un buongiorno. Po'. Benvenuto, buongiorno. Ci dica. Grazie, la vostra sinergia innanzitutto è potente, Deborah Nicoletta, devo dire che veramente incollate l'ascoltatore alla radio. Oggi cosa è successo? Giovanni, venga, c'è una congiuntura strana favorevole per il nostro segno. Per il nostro segno. Grazie è Giovanni, la verità. Grazie. Prego. E chiedevo al professore, visto che mi ritrovo purtroppo in una situazione di vista di mobilità, e al mattino quindi faccio attività fisica, ma poi ho voluto riprendere lo studio, bravo, del francese, riprendere... Esatto, e l'attività fisica del mattino, la corsa, toglie poi energia allo studio. Qual è meglio fare prima? Non credo che tolga energia allo studio, credo che quel piccolo warning che diamo a chi fa l'attività fisica la sera di non farla troppo spinta, perché poi attiva le endorfine e quindi poi non si dorme, alla mattina invece direi che rappresenta un valore aggiunto, cioè fare la corsa e attivare un pochino le proprie endorfine, dovendo poi mettersi a studiare, verosimilmente dà quella sorta di compensazione anche di piacere interno, credo che possa avere più risultato, quindi farei con questo schema, prima la sua corsetta e poi studiare. Quindi promosso. E non ci conosciamo, perché, allora, anche perché l'accento non è proprio ferrarese il suo, comunque vabbè. Andiamo da Aguinaldo, ci scrive al 349-238-6666, avete mai sentito un nome così? No, molto no. Impegnativo. Aguinaldo ci scrive se c'è una relazione tra ritmo bio e alimentazione. Noi sappiamo che quando intervengono dei medici nutrizionisti suggeriscono sempre di consumare una colazione molto abbondante, poi di distribuire i vari nutrienti nell'arco della giornata senza appesantire troppo il nostro organismo, ma c'è anche un'indicazione che arriva dalla cronoterapia, ci sono sostanze e nutrienti che è meglio assumere al pranzo, meglio che a cena? La domanda del signor Aguinaldo, oltre che un nome bellissimo, è di un'attualità sconvolgente. Perché mentre si è sempre parlato, ok, è vero la colazione e quant'altro, ma un conto è parlare di tempi di assunzione di cibo, quindi la colazione abbondante, la cena leggera e quant'altro. Questa è sulla distribuzione delle calorie o degli nutrienti. Sì. Si sta vedendo in questi ultimissimi anni che esiste un orologio biologico anche a livello del tratto gastrointestinale, sì. Viene chiamato FEO, con un nome particolare, Food and Trainable Organism, vabbè, comunque una cosa non in inglese, non è un nome di fantasia, no. Per cui i nutrienti, i tipo di cibi in certe ore anziché in altre giocano un ruolo di sincronizzazione delle attività quanto altri orologi biologici. Quindi, il cosiddetto cervello intestinale, sì. Il fatto che abbiamo delle ore specifiche del giorno in cui i nostri enzimi che sciolgono i grassi sono attivi, vuol dire che dargli dei grassi in ore in cui questi enzimi non sono attivi, noi questi grassi li teniamo. Dottore, li Escalora. Allora, sì. Qual è l'ora? Beh, per esempio, non mangiamo grassi la sera. per un doppio motivo. Da una parte il mio cardiocito, cioè l'orologino del cuore, non gradisce perché lui mangia grassi ed è pronto a attivarsi in altre ore, quindi si vede arrivare un carico importante quando non è attrezzato. Secondo, se vi ricordate, durante la notte aumenta la nostra melatonina endogena, quindi il nostro organismo si mette a bassa temperatura e a basso consumo, come fossimo letargo, quindi non consumiamo una briciola di calorie, quindi il cuore non è contento e le teniamo tutte. Così. Non consumiamo una briciola di calorie, però se mangiamo le proteine a cena, ad esempio. Se esageriamo con le proteine, stiamo svegli. Ecco. Quindi bisogna... Con i carboidrati si dorme di più, dopo c'è tutta una serie bisogna di giochi. Come un orologino, anche vero? Come i meccanismi di un orologino. Chiamateci quindi se volete sapere quale è il momento migliore per assumere anche particolari alimenti. E noi andiamo intanto da Franco, che ci chiama da Pistoia. Esatto. Avevamo anticipato che la cronobiologia riesce a studiare anche e a evidenziare, a sottolineare il momento migliore per assumere alcune terapie, in modo che arrivino lì nel momento esatto in cui c'è bisogno del farmaco. Franco, buongiorno, ci chiama da Pistoia, benvenuto. Buongiorno a voi. Volevo chiedere al professore il momento migliore nell'arco della giornata per prendere gli H2 bloccanti, gastroprotettori, perché per esperienza diretta io li prendo la sera prima di andare a letto a stomaco vuoto, in quanto ritengo che la maggior produzione di acido fluoridrico è di solito notturna e quello che viene prodotto nell'arco della giornata mi serve poi per digerire. Allora, ritengo, ha detto Franco. Sì, però Franco sa, secondo me, professore. Sì, io vedo Franco, vedo il signor Franco molto preparato. Dunque, è vero che il tono del nervo vago è predominante nelle ore notturne. E il tono del nervo vago, fra l'altro, è colui che detta per esempio la produzione dell'acido, quindi è vero che prendere la pastiglia, l'H2 antagonista alla sera può andare bene. Devo dire che per una serie di su molti farmaci anche molto nuovi è diventato tutto sommato meno importante, per cui anche la somministrazione mattutina di alcuni anti-H2 può andare bene, quindi diciamo che in linea teorica lei è perfetto, e se qualcuno lo prende al mattino non sbaglia. Allora, professore, secondo lei, vogliamo, dato che abbiamo aperto la parentesi terapia, dare delle indicazioni? Quali sono, secondo lei, le cose che i nostri ascoltatori devono sapere importanti? Ad esempio, partiamo da macro, no, famiglie di farmaci. Molti ascoltatori sicuramente terranno sotto controllo la pressione alta con la famosa OLE, perché di solito i farmaci sono più di una, terapie. Qual è il momento migliore? Dunque, giustamente ha detto che non è detto che sia uno, anzi ultimamente si dice che è meglio prendere un'associazione di farmaci piuttosto che alzare molto la dose di uno. Certo. Quindi se uno prende più di un farmaco, normalmente la terapia per l'ipertensione viene assunta al mattino, tradizionalmente. Dobbiamo essere certi che quel farmaco duri 24 ore, perché dobbiamo essere certi che arrivare al mattino successivo, quando c'è la fase del rischio cardiovascolare, siamo ancora coperti. Quindi bisogna che sia una molecola che garantisce le 24 ore. Qualora uno ne prenda più di uno, può essere buona norma spostare uno di questi farmaci alla sera, specie se è un ACE inibitore, cioè un farmaco delle famiglie che inibisce l'enzima di conversione. Facciamo un nome, tanto per dire, un Ranipril, perché è un nome di una molecola, quindi non stiamo facendo alcuna pubblicità, è un nome generico. Perché si è visto da studi molto recenti su diabetici, su malati con insufficienza renale, cioè malati con delle ipertensioni difficili, che si ripristina anche il controllo notturno. Voi sapete che molti ipertesi di notte ce l'hanno alta. Sì, sono i cosiddetti, è un rischio, sono i cosiddetti non dipper, e quindi in questo caso può aver senso portare un farmaco la sera. Andiamo a un'altra grande categoria di farmaci, le statine per controllare il colesterolo. Anche loro hanno un momento ideale? Sì, diciamo che l'enzima che produce il colesterolo lavora di sera a notte. Quindi c'è un da fare di notte, è pazzesco. Noi dormiamo, la nostra insaputa succede di tutto. Voi non avete un'idea, c'è una sorta di fotografia che vede in cui quando si accendono i geni della luce diurna e poi si spengono perché si accendono i geni che lavorano di notte. Il 15-20% dei nostri geni sono circadiano dipendente, alcuni preferiscono le luci, alcuni preferiscono il buio. Quindi veramente è fantastico. Certo che fa un lavoro magnifico, un'immagine davvero affascinante. E tornando quindi a cosa fa questo enzima, quello del colesterolo, lavora di sera a notte. Per cui chi usa la statina, la simvastatina, che è quella usata poi per il 90% delle persone, assolutamente prenderla alla sera, le 21, le 21.30, lì siamo certi che avremo il massimo dell'efficacia. Su quelle di generazioni successive, quelle più potenti, gli studi dimostrano che non c'è, sono così potenti che non c'è una differenza, ci inibiscono nell'arco di tutta la giornata. Quindi professore, l'indicazione che veniva data, assumere 3 volte prima dei pasti principali oppure a stomaco pieno, a stomaco vuoto, direi che è un po' datata. Dobbiamo chiedere di più, possiamo chiedere di più al nostro medico curante nel momento in cui ci prescrive una terapia? Sì, quella definizione è una definizione veramente un po' antica della medicina, che per carità va ancora bene per determinate sostanze. Il papà della cronobiologia, che è il professor Alberg, un illustrissimo scienziato che è morto pochi mesi fa, oltre 90 anni, aveva coniato questa frase: tempus non solum dosis venenum facit. Quindi attenzione, perché una sostanza può diventare tossica o favorevole non solo in base alla dose, ma anche in base a quando la prendiamo. A quando la si prende, incredibile. Se volete superare la barriera rosa, 800 24 00 24, ancora pochi minuti di trasmissione, esatto. Ma per rispondere alle vostre domande, sì, anche leggerei questo messaggio di Roberto, che ci ha scritto proprio all'inizio, sì. Raccontandoci che frequenta adesso una palestra con intensa attività funzionale alle 6 del mattino, fa colazione alle 5, dopo alcuni mesi di assestamento ora va benissimo, non lo cambierebbe con altri orari. Però mi ha colpito questa precisazione: mesi di assestamento, vuol dire che il corpo non era proprio pronto magari a questa rivoluzione della giornata. E poi fare colazione alle 5 del mattino, dottore, va bene? No, beh, l'hanno sempre fatta molto presto, sì, la colazione, no? Quindi il massimo introito di calorie dipende anche dall'attività che uno va a svolgere, quindi se lui poi va a fare attività importante, sì. Se uno si sveglia alle 5 del mattino poi va a letto, è inutile. Certo. E se si trova colazione, bene, ma... sì, come dicevamo anche prima parlando un attimo tra di noi, il discorso quando si parla di ritmi circadiani generali, noi diamo così delle regole di popolazione, sì. Poi chiaramente ognuno ha una propria regolazione, quindi se uno si trova bene con un certo suo, che si è creato un suo pattern che funziona, va bene. Se uno chiede qual è il migliore, effettivamente fare un'intensa attività fisica al mattino non sarebbe, in linea teorica, il momento migliore, perché c'è meno sangue ai muscoli, il cuore fa più fatica, c'è la frequenza cardiaca maggiore, quindi è un momento, dal punto di vista, se uno dovesse fare un record, non è quello dove si produce il record, ecco. Certo. Allora, volevi leggere Roberto da Parma o che altro? Roberto da Parma ci scrive: se fare l'amore dopo cena, prima di dormire, fa bene. Che dice la scienza? La scienza, sì. La cronobiologia si è allargata, sì, anche, è diventato un po' hard. Se devo essere sincero, mi meravigliavo, sì, che non fosse ancora arrivata la domanda. Abbiamo però 30 secondi. Allora, velocissimo, se intendiamo un'attività, quell'attività come muscolare, fisica, prestazionale, certo, è l'ora ideale. Se vogliamo intenderla in un altro modo, vanno bene tutte. Ok? Va bene, vedi, e con questa ad orario più o meno protetto, però insomma siamo, allora, stati eleganti. Mi sono messo all'ascolto solo ora. Come si chiama il professore in onda? Possiamo subito dirglielo anche al nostro ascoltatore che non ci, certo, ci scrive, il professor Roberto Manfredini, e così approfittiamo. Lo vado a trovare a Ferrara. Associato di medicina interna, direttore della clinica medica di Ferrara, è un grandissimo esperto di cronobiologia, non lo diciamo noi, lo dicono le pubblicazioni e i riconoscimenti internazionali. Professore, noi la ringraziamo davvero per essere stato con noi, non faccia passare troppo tempo, ecco, e torni a trovarci. Si trova bene in questo orario? Io mi trovo benissimo, ottimo, poi qui con voi mi trovo benissimo, benissimo. Quindi grazie dell'invito e arrivederci a tutti. L'orario di Cuore Denari è perfetto, è perfetto. Tutti, per la salute e per i denari. Ritorniamo domani naturalmente, vi aspettiamo qua alle 11 come tutti i giorni, buon pomeriggio a tutti. Cuore e Denari.